sempre al solito giorno cambierà mai. Mentre ci osservo accumulare denari, cambierai mai. Io mi ricordo che tu ti agitasti decenni or sono. Mi ricordo che tu ti agitasti secoli or sono. Ciò che importa è che tu abbia fatto.